GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona domenica da Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del giornale radio in cui ci occuperemo ancora dei controlli ai confini dopo la temporanea sospensione di Schengen, trovato morto l'anziano di Budoia che era disperso da ieri pomeriggio. Poi parleremo della giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro che l'ANMIL ha organizzato a Pordenone e della convention di Fratelli d'Italia a Udine. Domenica di sport in cui protagonista è il basket, tutte e tre le squadre regionali impegnate. Trieste ospita in casa la Fortitudo, al Palacarnera il derby Apugesteco. Secondo giorno di controlli, dunque, i nostri confini, partiti ieri per la sospensione di Schengen, controlli contenuti, così come contenute code e rallentamenti, 300 le unità di rinforzo previste in regione, delle quali circa la metà a Trieste, l'altra metà in Friuli e nell'Isontino. Provvedimento, ricordiamo, valido fino al 31 ottobre, anche se una proroga è possibile. Il 2 novembre a Trieste, vertice tra il ministro dell'interno Piantedosi con i suoi omologhi sloveni e croati. La protezione civile regionale ha fornito nuovo supporto logistico con l'allestimento di torri faro di illuminazione in prossimità dei valichi di Sant'Andrea e San Gabriele a Gorizia e a Vencò di Dolegna del Coglio. È stato ritrovato senza vita Dino Carlone, il pensionato di Budoia di 84 anni, uscito di casa ieri con il cane per la consueta passeggiata mattutina e che non era più rincasato. Il ritrovamento è avvenuto a San Giovanni di Polcenigo, a circa 5 chilometri di distanza da zona che frequentava il pensionato, quindi una zona abbastanza lontana. Il corpo è stato ritrovato in un'area nascosta, vicino a una peschiera, e è stato ritrovato anche il cane con cui era uscito. Per rintracciarli, dopo la segnalazione della sorella, erano stati coinvolti i volontari della protezione civile di Budoia e Polcenigo, i carabinieri, i vigili urbani, il soccorso alpino e l'unità di crisi locale dei vigili del fuoco. Scomoda avventura per quasi 200 passeggeri di un aereo decollato ieri pomeriggio dall'aeroporto londinese di Stansted e atteso a Ronchi dei Legionari. Per loro un'inattesa deviazione su Vienna e il rientro in Italia solo stamattina a bordo di un pullman. Il volo, operato da Laudaair per conto di Ryanair, è stato dirottato nella capitale austriaca quando si trovava sui cieli della Baviera tra Monaco e Salisburgo. Il pilota ha annunciato il cambio di destinazione, riferisce uno dei passeggeri, adducendo un problema tecnico relativo all'utilizzo del radar. In un primo momento si era parlato di un trasferimento successivo con un altro aereo verso la destinazione finale. Invece i 200 passeggeri, compresi alcuni anziani e alcuni bambini, anche molto piccoli, hanno trascorso alcune ore nello scalo viennese prima di riprendere il viaggio a bordo di tre pullman. Partito alle 3 di domenica mattina, il gruppo ha raggiunto Ronchi solo alle 10 dopo un viaggio di 7 ore su strada. E adesso uno sguardo al tempo con cielo variabile, con ampie schiarite sulla nostra regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 18 gradi e 5 decimi, a Gorizia 19, a Udine e a Pordenone 18, a Tolmezzo 15 gradi, a Forni di Sopra 10, a Treviso 14, a Piancavallo e Sappada 9 gradi. In montagna sull'Ussari 7 gradi e sullo Zoncolan 5, sulla costa a Grado 18 gradi e a Legnano 21. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi pomeriggio prevarrà tempo più stabile con schiarite, specie su pianura e costa. Possibile qualche locale pioggia sulla zona montana, in genere debole. Domani avremo una giornata stabile, cielo poco nuvoloso o velato su pianura e costa, variabile in montagna ma con possibile nuvolosità più consistente in Carnia. Per la celebrazione regionale dell'ANMIL, in occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro, è stata scelta la ditta Codognotto di Pordenone, una realtà che assieme all'Interporto crede nell'investimento sulla sicurezza, sicurezza che ancora troppo spesso è carente, come è stato più volte sottolineato, dal momento che in Italia abbiamo mediamente 3 morti sul lavoro ogni giorno. Gli spazi della ditta Codognotto, a pochi metri dall'Interporto di Pordenone, sono il luogo scelto dall'ANMIL regionale per celebrare gli 80 anni della propria fondazione e la giornata nazionale delle vittime sul lavoro. Mediamente in Italia ogni giorno muoiono 3 lavoratori, quindi come avveniva nel 2008. 8. In regione da gennaio ad agosto gli infortuni mortali sono stati 16, di cui 7 a Pordenone e 6 a Udine. Gli infortuni denunciati in questi 8 mesi sono in calo del 20%, ma rimangono alti in termini assoluti, oltre 10.000 i casi, e le malattie professionali denunciate sono oltre 1.380. La formazione e la cultura della sicurezza devono diventare sempre più presenti nella società, dice Forni. L'associazione con la scuola della testimonianza ha creato dei testimonial della sicurezza che vanno nelle scuole e nelle fabbriche a portare le loro testimonianze e noi riscontriamo grande interesse. Da amministratore delegato dell'azienda di famiglia, Maurizio Codognotto ha evidenziato che la sicurezza sul lavoro è impegno civico e morale nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie e supera la mera applicazione delle norme, ma significa anche formazione continua, attenzione al benessere e integrazione. I giornalisti e le giornaliste possono incidere sulla promozione della cultura della sicurezza, sostiene la vicepresidente dell'ordine Paola Dalle Molle. Di narrare i fatti inquadrando le storie delle vittime o dei protagonisti delle notizie e cercando sempre di avere un grandissimo rispetto su quello che è il nostro lavoro, di quella che è la verità dei fatti. Pordenone, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Udine per la convention di Fratelli d'Italia. Sul palco il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Dal Cairo la premier Meloni ha inviato un videomessaggio. Rivendicata la reintroduzione dei controlli alle frontiere e i risultati in politica estera e interna. Ad un anno esatto dall'insediamento del suo governo, in un videomessaggio inviato dal Cairo prima di volare in Israele, la Presidente del Consiglio si è detta fiera di quanto fatto, fiera della nostra comunità politica e anche di me stessa, e orgogliosa, ha aggiunto Meloni, della compattezza della maggioranza. Un intervento registrato e proiettato in tutte le convention d'Italia, in contemporanea in tutto il paese. L'evento di Fratelli d'Italia, dal titolo L'Italia vincente, un anno di risultati, si è tenuto per il Friuli Venezia Giulia alla Fiera di Udine. Abbiamo tenuto la linea dritta e stiamo facendo un passo alla volta, ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, comprese scelte impopolari come cancellare il superbonus e il reddito di cittadinanza. Da novembre in poi saranno indetti congressi provinciali, fondamentali per far crescere la classe dirigente di un partito che è passato da essere l'ultimo a essere il primo. Sguardi puntati anche alle prossime elezioni europee e obiettivo di far eleggere in regione il primo europarlamentare a Bruxelles. Rivendicano il ripristino dei controlli alla frontiera i politici che si susseguono sul palco. Nelle prossime settimane vedrete i risultati di questa misura, ha affermato la senatrice Francesca Tubetti, eletta proprio nel Goriziano. Oggi abbiamo finalmente una politica estera, ha detto il segretario regionale Walter Rizzetto. Siamo una destra sociale che guarda famiglie, operai, dipendenti, giovani coppie che non riescono ad avere i figli, ha aggiunto. A sinistra l'opposizione la fa il sindacato e non ci sono né leader né programmi di governo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, basket, Serie 2, squadre regionali protagoniste questo pomeriggio, primo big match della stagione per la Pallacanestro Trieste che alle 18 ospita in casa la capolista Fortitudo. A Udine, derby contro Cividale, anche qui palla 2 alle 18. In primavera la parola fine era arrivata proprio sulla sirena di gara 5 con il tiro di rilievo che esce e Udine che passa il turno. 5 mesi dopo e di nuovo derby, di nuovo al Carnera. Alle 18 la rinnovata APU di Adriano Vertemati ospita una Cividale a sua volta cambiata, anche se ancora nelle mani di Pillastrini e del talento argentino. Il presidente Pedone continua a chiamarlo derbino, ma sa che è una sfida che specie in casa non può perdere. La sua Old Wide West parte favorita perché ha giocatori migliori e perché, pur non entusiasmando a pieno, è avanti in classifica. Il rischio è quello di farsi trascinare nella battaglia dove Rota, non amatissimo Erizzi e Miani si esaltano e i trucchetti del coach Ducale valgono doppio. Chiave per Udine, coinvolgere Delia, finora lontano parente di quello visto a Trieste, e recuperare da Ross, play aggiunto, continuando a tirare bene da 3, 40% complessivo finora. Cividale deve invece limitare i parziali presi e correre con i lunghi, costringendo Vertemati a schierare quintetti piccoli. Prima della partita sarà ricordata la leggenda del basket friulano Nino Cescutti, morto a Udine venerdì notte travolto da un'auto. A Valmaura, sempre alle 18, la Pallacanestro Trieste prova a rialzarsi dopo l'Arachiri di Cento, di fronte un avversario che per nome e posizione in classifica è da solo fonte di motivazione, la Fortitudo di Caia, capolista in battuta, e la nemesi perfetta per i ragazzi di Christian. Bologna è una squadra corta, fisicamente forte, che difende e gioca a ritmi bassi, esattamente il contrario dei biancorossi. Se non ci sono stati correttivi alla filosofia di gioco in settimana, a decidere la partita saranno le percentuali della distanza. Su volumi come quelli tirati dai triestini serve almeno il 35% per vincere. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La rassegna Alto Livenza Festival si trasferisce a Valvasone, uno dei borghi più belli d'Italia. Alle 16.45 sarà possibile effettuare una visita guidata del castello, seguita alle 17.30 dal concerto Mad Songs, il teatro della follia con il duo canto e liuto formato da Martina Zaccarine e da Luciano Russo. Alla musica si alterneranno brani recitati dall'attrice Sara Beinat. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano ed Eugenio Giuffrida. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, l'augurio di una buona domenica e grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.